3. Il racconto di Elizabeth von Arnim e di Catherine Mansfield. Fui una donna e una scrittrice vittoriana di origini inglesi, sposata a un pessimo uomo che mi portò in una patria lontana. Che altro avrei potuto fare se non scrivere di donne che tentano di ribellarsi? Il mio aristocratico marito prussiano perse tutti i suoi soldi in cattivi investimenti. Ciò nonostante, quando io cominciai a scrivere per sfogare la frustrazione di una vita eccessivamente controllata e preordinata, accanto a un uomo collerico e ottusamente maschilista, egli mi prese in giro e mi insultò sottilmente per mesi, poiché una donna che scriveva, anche se sotto pseudonimo, era sicuramente una poco di buono. Ma siccome sua moglie non poteva essere una poco di buono, allora non restava che pensare che fosse stupida. Poi, però, i miei scritti cominciarono a rendevano qualcosa che la sua mente ottusa di maschio prussiano poteva capire facilmente: denaro. Allora smise di insultarmi e cominciò ad impossessarsi del denaro che io guadagnavo. Era la legge a permettere che ogni soldo della moglie, che fosse di dote o guadagnato, appartenesse al marito. Il denaro che guadagnavo coi miei scritti ci salvava dall'indigenza ed egli se ne appropriava senza il minimo scrupolo, pur continuando a rivolgersi a me con sottile disprezzo. Sorella Colette. Elizabeth rivolse lo sguardo verso una delle donne sedute in cerchio, anche lei intabarrata in un lungo caftano blu, da cui sbucavano alcune ciocche ribelli di capelli neri come l'ala del corvo. Tu pure, sorella Colette, hai dovuto subire l'umiliazione di veder rubato il tuo lavoro e il tuo guadagno da un marito prepotente, buono solo ad arrogarsi i meriti che non aveva e a raccogliere gli allori seminati da sua moglie. Tu che divenisti icona mondiale della Belle Époque parigina, proprio in quella Parigi dove tuo marito, vecchio donnaiolo, sfruttatore e prepotente, ti rinchiudeva in un appartamento obbligandoti a scrivere per oltre 16 ore al giorno, firmando poi lui il tuo lavoro e gli autografi, senza vergogna, e incassando il denaro che andava a spendere nei postriboli. Mentre tu producevi altri libri che poi lui si accreditava. La tua storia è così simile alla mia, tranne per le scelte sessuali. Ma entrambe siamo state definite delle poche di buono, vero sorella? Come tutte le donne di talento che si ribellano, come Sibilla, Aleramo e le altre. La tua Claudine, sorella Colette, divenne il simbolo della libertà femminile. Per fortuna la sconcia vita di tuo marito provocò la rottura del vostro matrimonio e tu, finalmente, consapevole di te stessa e del tuo talento, iniziasti la battaglia per rivendicare la proprietà delle tue opere. Da quel momento divenisti libera e padrona di te stessa. Quanto a me e al mio pessimo marito, le mie bambine, come anche il figlio della sorella Sibilla, si accorgevano del disprezzo che il loro padre provava per me e ne soffrivano. I loro perfetti cuori di bimbe non capivano perché il loro Herr Vater fosse cattivo con mammina. L'unico merito che ebbe il mio cattivo marito fu quello di esasperarmi a tal punto da farmi prendere carta e penna per scrivere i miei sfoghi, che passavano inevitabilmente per il mio giardino, l'unico luogo dove io trovassi armonia e pace, l'unica mia vera casa. Avevo 32 anni quando ne scrissi la storia in Il giardino di Elizabeth. La storia di come lo creai con l'aiuto di un giardiniere tedesco che non obbediva volentieri alle istruzioni visionarie di una femmina inglese nata in Australia. Le forme basate sulla naturale rotonda casualità della flora spontanea lo spiazzavano ed egli seguitava a volermi ricondurre a un rassicurante, prevedibile, disperatamente preordinato disegno botanico geometrico prussiano. Ma io avevo fatto pratica con un marito molto più ottuso di lui e non mi lasciai minimamente dissuadere. Se facevo piccole concessioni alle sue esigenze floreali di maschio teutonico, era solo per potergli poi imporre con ferma gentilezza qualche mia femminea, imprevedibile invenzione britannica. Così, parallelamente, nacquero sia il mio meraviglioso giardino tedesco, vivevo in Germania per matrimonio, sia il mio primo libro che mi ribattezzò definitivamente Elizabeth. Le vicissitudini stagionali del mio giardino e della mia vita privata trovarono voce nel seguito di quel primo libro. Lo intitolai Un'estate da sola, in cui raccontai come vinsi la sfida che l'uomo della collera, così chiamavo mio marito, con questo termine biblico, mi aveva lanciato riguardo al fatto che non sarei riuscita a trascorrere un'intera estate senza ospiti. In quel libro descrissi tutto il mio amore per il silenzio e la pace del giardino e per la vita ritirata e meditativa. Mi puoi capire, sorella Frances Hodgson Burnett? Si rivolse di nuovo a un'altra sorella nel cerchio che seguiva con attenzione il racconto e annuiva spesso. Tu che proprio in un giardino, sacro simbolo di meditazione e riscatto, ambientasti il più bello dei romanzi che scrivesti e che intitolasti Il giardino segreto. E ne facesti un luogo di guarigione dalle infermità del corpo e dello spirito. Poi, come le ciliegie che quando cominci a mangiarne una devi per forza proseguire, vennero altri libri dove descrivevo me stessa e le mie avventure di donna infelicemente maritata che viaggia da sola. Amavo molto viaggiare da sola e seguire l'istinto, lasciandomi guidare dalla curiosità e dall'attrazione per angolini che le altre persone non notavano. Lo scrissi in Elisabeth a Rügen e in Uno chalet tutto per me, racconti umoristici e a volte amari delle mie vacanze solitarie. La sorte volle che quel marito pesante e senza vita se ne andasse presto all'altro mondo, essendo molto più anziano di me. Mi lasciò libera di abbandonare la Germania senza soldi, ma con le mie bambine e il mio solido futuro di scrittrice tra le mani. Catherine, mia dolce cugina sorella. Elisabeth prese la mano della donna seduta accanto a lei e la sfiorò con le labbra. Anche tu, con quel tuo pedante marito così per bene, inglese senza humor. Ah, che improbabile, quanto patetica combinazione. Eppure anche tu riuscisti a tirar fuori dal tuo cuore e dalla tua penna dei pezzetti di assoluta perfezione di vita. I tuoi racconti ancora adesso mi fanno pensare davvero a piccole perle infilate in un filo di lucida, discreta sorellanza. Io, sospirò Elisabeth dopo una pausa, ebbi un secondo cattivo marito, questa volta inglese. Continuai a creare giardini in qualunque luogo mi trasferissi a vivere e a riempire i miei salotti di libri. Vissi a Londra e in Svizzera, dove avevo un delizioso chalet e una famiglia locale che si occupava di me e mi obbligava a mangiare regolarmente con una tenacia davvero commovente. In ognuna delle mie case custodivo tutti i miei libri e intrattenevo amicizie intellettuali. Figuratevi che Edward Morgan Foster fu tutore delle mie figlie. Ero perfettamente consapevole di quanto la vita fosse dura per le donne che cercavano emancipazione e indipendenza. Le scrittrici venivano considerate con sospetto, spesso derise dalla stampa satirica e sminuite o insultate dai loro stessi familiari. Ma io non mi lasciai impressionare. Dopo il secondo cattivo marito, decisi che da quel momento avrei avuto semmai solo cattivi amanti. A Londra frequentavo femministe e intellettuali che ispirarono i miei scritti, nei quali raccontavo e denunciavo principalmente la condizione della donna in una società che negava la parità dei diritti. Usavo le parole come lame ghiacciate, che sezionavano con precisione chirurgica la realtà femminile del mio tempo per mostrarla senza ipocrisia. Posi al centro del mio romanzo più noto, Un incantevole aprile, la condizione subalterna in cui le donne del mio tempo erano costrette a vivere la fuga e la solidarietà femminina, ispirandomi a una vacanza da me realmente trascorsa sulla costa italiana, al Castello Brown di Portofino, narrai le avventure di quattro donne estremamente diverse tra loro che decidono di fuggire dai mariti e dalla noia della piovosa Inghilterra per prendersi un mese di vacanza in Riviera Ligure, dove scoprono la libertà e la meraviglia della solidarietà, dell'affetto e del sostegno reciproco. Le mie donne, beh, quelle dei miei romanzi, erano le donne comuni, quelle senza forza sufficiente per combattere il patriarcato dominatore, quelle che per un po' si salvano grazie al loro candore e semplicità, ma poi vengono di nuovo impastoiate da un sistema troppo forte per essere sconfitto. come la maggioranza di noi, che ancora stiamo provando a liberarci dal guinzaglio del mondo androcentrico senza esserci del tutto riusciti a causa delle mille astute modalità che esso ha di mantenere il controllo. Le donne dei miei romanzi mi piaceva immaginarle splendide, sia fisicamente che moralmente. Erano le donne vittoriane che ancora dovevano obbedienza ai mariti e diventavano loro proprietà nel momento esatto in cui smettevano di essere proprietà dei padri. Le vicende erano ovviamente pretesti per raccontare le condizioni della vita femminile in quel delicato periodo di passaggio e di lotta che portò poi al voto e all'acquisizione di alcuni fondamentali diritti quali ereditare, possedere la propria dote o una professione retribuita, avere giurisdizione sui figli e una pensione di anzianità. Grazie, grazie sorelle Emmeline e Christabel Pankhurst, grazie a tutte voi, Millicent Fawcett e le altre, che con la vostra lotta ci avete consegnato le chiavi per assaporare un po' di libertà, di dignità, di fiducia. E grazie alla straordinaria Anne Bronte, che ci ha offerto una preziosa descrizione giornalistica della vita delle donne vittoriane. Ahinoi, Anne, la sorella minore di Charlotte Emily Bronte, morì troppo giovane per avere il tempo di produrre più opere di quelle che ci ha lasciato, ma io, nata 40 anni dopo e molto più in forze di lei, ebbi presente la sua Lectio Magistralis, quando creai quella vera e propria perla femminile dal cuore generoso e puro, Ingeborg, che... Sì, Karen, Ingeborg, come tua madre. Dicevo, la mia Ingeborg, conscia dell'ingiustizia e non più disposta a subirla, prova con tutte le sue forze, senza riuscirci, a liberarsi dall'orribile marito metodico, patologico e convinto che il ruolo della donna sia esclusivamente quello di procreare. In realtà, nessuna delle mie protagoniste riesce a liberarsi, ma io sì. Io ci riuscii. Lasciai dietro di me due cattivi mariti e giunsi a vivere il Novecento da donna libera ed emancipata, fino all'ultimo dei miei giorni. Voli far rivivere a Ingeborg, alla mia Ingeborg, la paura crescente che io stessa avevo provato di fronte al primo parto e la reazione anaffettiva e insensibile di suo marito come quella del mio. I mariti e molte mogli, almeno in Germania dove vivevo, erano davvero convinte che per una donna non ci fosse altro che partorire e affrontavano le gravidanze con teutonico stoicismo, facendo con determinazione il loro dovere di brave donne tedesche. Io ero allibita da tanta caparbietà nel negare se stesse. Volevo gridare, mettere in guardia le future generazioni di fanciulle, ma invece lo feci senza drammi, con stile ironico e leggero, per creare storie godibili, dialoghi e osservazioni divertenti, malgrado le tematiche penose. Non volevo spaventarle le mie lettrici, ma spronarle con gentilezza. Poi, però, dovetti cercare un clima più mite. Quello piovoso inglese cominciava a provocarmi dolori e io volevo vivere nella gioia. Così mi trasferii in Francia dove traslocai tutti i miei libri e ricreai di nuovo un meraviglioso giardino nel quale ricevevo gli amici. Fui energica, positiva fino alla fine e non mi sentii davvero anziana fino al compimento dei 70 anni. Infine, l'incombere della guerra mi costrinse a scappare negli Stati Uniti e lì, a 75 anni, quasi contemporaneamente alla nostra sorella Virginia Woolf, lasciai il corpo dopo una vita faticosa, ma che mi permise di godere grande successo. Amai mia cugina Catherine, la amo ancora. Noi avevamo lo stesso modo di usare la penna, così leggero, osservatore, curioso, attento ai dettagli come lo zampettare di un pettirosso sulla neve. Non vivevamo vicine e non avevamo modo di frequentarci molto, ma ci scrivevamo. Abbassò lo sguardo per guardare amorevolmente la figura seduta immobile accanto a lei. E nelle nostre lettere condividevamo Brani dei nostri scritti, ci confrontavamo sull'efficacia delle parole e delle frasi per descrivere un particolare stato d'animo o un particolare colore che da cugine vedevamo in maniera simile. Il sangue creava risonanza tra le nostre anime. Ho grande stima e affetto per mia cugina Catherine Mansfield. Penso con pena alla grande ricchezza di cui il mondo avrebbe potuto beneficiare se lei, come Anne Bronte, fosse vissuta di più. Ma questo fu il volere della grande madre e Catherine ci lasciò presto. La sua anima cristallina rimase tale, le fu risparmiato essere appannata dai vapori del tempo. Vorrei presentarvela. Si alzò sulle ginocchia e fece per abbassare il velo alla donna che sedeva accanto a lei, quando un'altra figura, dalla parte opposta del cerchio, avvolta in un caftano color caffè scuro, si alzò e si erse su di noi, maestosa, altissima. No! tuonò. Sarò io a presentare la piccola Catherine. Lei, che fu la mia nemesi e co-significante. Lei, che ebbe il coraggio di fare ciò che io temevo. Consegnare il corpo alla dimensione spirituale per guarire l'anima. Lei, che io volli pubblicare perché era l'unica che sentivo di chiamare scrittrice. E che ammirai, estimai tanto da considerarla la sola che potesse starmi alla pari, o sfidare la mia autorità letteraria. Con tutto il cuore, piccola Catherine, ti chiedo di rivelare il tuo volto e di permettermi di baciare le tue piccole mani trasparenti. Si tolse il velo che le ricopriva volto e capelli e riconoscemmo la regale maestra Virginia Woolf. Aveva gli occhi lucidi ed era visibilmente commossa. Catherine, proseguì Virginia, non era omologabile come scrittrice. Il suo stile non assomigliava a nessuno. Lei parlava col suo diario come fosse un editore con cui discutere qualità e tempi di produzione della scrittura. Il suo modo di descrivere gli eventi e i dettagli era molto simile al mio, frammentario come il fluire dei pensieri. È una scrittrice nata, pensavo, capace di collegare attraverso le parole frammenti di vita altrimenti scollegati. Una scrittrice la cui splendida mente riceve caotiche impressioni e le trasforma in una chiara e fluida pagina. Nei suoi diari ogni cosa che le accadeva diventava argomento da descrivere e si trasformava in letteratura. Racconti che sembravano incompiuti, brevi respiri che lei emetteva tra un'impressione e l'altra, dolori, sensazioni, pene, sorprese, scoperte. Era ossessionata dall'idea di non far abbastanza, di non avere la forza fisica per affrontare ciò che riteneva il suo compito. Non faceva mai allusioni al successo che ebbe. Era come se la cosa non la riguardasse. Il risultato che lei cercava era unicamente riferito alla sua personale soddisfazione riguardo la pagina che produceva. Scrivere con autenticità, con unità, con semplicità, scrivere pienamente, completamente, con l'anima e il corpo, scrivere per sopravvivere alla maniera delle donne. La inserii nel mio gruppo di Bloomsbury, di cui facevano parte anche mio marito Leonard, e alcuni altri intellettuali dell'epoca, inclusa mia sorella, anticonformisti e antivittoriani, perché anche lei, come me, si era resa conto che raccontare la vicenda è volgare. Anche Catherine pensava che fossero le emozioni, le sfumature, i concatenamenti psicologici dei pensieri che accompagnano l'azione, quelli che meritano di essere indagati e descritti. Se, come dicono, io, Virginia Woolf, inventai la scrittura femminile, Catherine Mansfield, la perfezionò. Portammo in manifestazione due livelli successivi di scrittura femminina, emozionale, non logica, non patriarcale. Noi due ci sfidavamo, per così dire, ma io sostenevo che Catherine fosse l'unica mia potenziale concorrente. A 29 anni ero già famosa e immediatamente consapevole del suo talento, le chiesi di scrivere per la nostra casa editrice, la Hogarth Press. Non ricambiai il suo affetto in vita, rimasi fredda e arrivai solo ad ammettere che quello che sentivo era nient'altro che stima. Lei, invece, aveva fatto un passo più di me verso la conoscenza della vita e io la invidiavo moltissimo. Era così malata. La morte era talmente la sua compagna quotidiana che dovette per forza affrettarsi ad arrivare al nucleo della scrittura. a concludere l'opera di dare finitezza a quelle pennellate appena sbozzate che io mettevo sulla tavolozza. Quando la sua malattia fu conclamata, per un po' Catherine obbedì ai medici. Infine, non ottenendo risultati, si rese conto che il proprio male era dell'anima, non del corpo, e smise di prendere medicine. Ciò che lei intendeva per salute è la capacità di vivere pienamente e di lavorare. Se non riusciva a fare queste cose, cadeva nella malattia. Tutto va bene, scrisse quando già era a Parigi nella comunità del maestro Gurdjieff. Nel diario in cui annotava i suoi stati d'animo rispetto alla malattia, alla tubercolosi e alla morte con una lucidità che non ha eguali. Tutto va bene. E morì 3 mesi dopo. Quanto invidiai la sua coraggiosa decisione di andarci da Gurdjieff. Come avrei voluto essere là anche io con lei, poter ammettere che anche per me, Virginia Woolf, quella era la strada giusta, che la mia anima anelava riconoscere lo spirito che abitava in me. Ma ormai avevo creato e troppo alimentato quella mia immagine pubblica di intellettuale radicale, razionale e atea. E non potei ammettere, nemmeno con me stessa, che le voci che sentivo nella testa non erano pazzia, bensì la chiamata dello spirito. Se avessi avuto la forza di rinnegarla, quella mia immagine, forse sarei vissuta di più. Le acque che si presero il mio corpo quando decisi di farla finita in questa incarnazione non avrebbero potuto esercitare quel forte richiamo perché io avrei ascoltato la mia anima e l'avrei lasciata libera di esprimersi e di volare. Invece di lasciarmi abbattere dagli scarsi risultati della mia attività femminista dell'epoca. Io avevo capacità medianiche e anelavo nel profondo riconoscere la vita dello spirito, ma non ebbi la forza di ammetterlo. Onoro il tuo cammino, il tuo coraggio e la tua coerenza, sorella Catherine Mansfield. Volevo che lo sapessi, ora che entrambe siamo fuori dalla gabbia della nostra immagine. Virginia lasciò le mani di Catherine e tornò al suo posto, un po' rigida, senza voltarsi. Catherine abbassò il velo color malva dai fini capelli castano chiaro. Sospirò dolcemente, senza alzarsi. Solo spostò il peso da una parte all'altra dei talloni su cui era seduta come una principessa orientale. Suppongo che ora tocchi a me, disse con grazia. Accettò volentieri una tazza di tè fumante. Lo sorseggiò lentamente e, dopo aver poggiato la tazza sulla sabbia davanti a sé, tracciando su quella stessa sabbia Ghirigori con le dita sottili, si apprestò a narrare. Dici bene, sorella Virginia. La ricerca spirituale ha guidato i miei passi fin da prima che io stessa ne fossi cosciente. Io, Catherine Mansfield, avevo circa 20 anni meno di te e di mia cugina. Indubbiamente, in termini di tempo, ho vissuto poco, ma con molta intensità. Come altre donne esploratrici e tenaci nel voler far sentire la nostra voce, dovevamo lottare talmente tanto contro i pregiudizi della casta patriarcale da morirne, letteralmente. Molte di noi furono davvero consumate nel corpo, poiché spesero tutta la loro energia per riuscire a crearsi una nicchia visibile, un ruolo che non fosse quello stereotipo di sorella, moglie e madre. La maggior parte di noi morì giovane. Allora la tubercolosi si chiamava consunzione e tale parola domestica era perfettamente calzante. Ci consumavamo nella battaglia per conquistarci un posto nel mondo degli uomini. E terminata tutta la nostra energia, non ce ne restava più per vivere. Ma nei pochi anni che abitavamo il corpo, io e altre meravigliose artiste sorelle come Dora Carrington, come Frances Virginia Sterrett, come le sorelle Bronte e Jane Austen e Edith Stein e Simone Veil e tu stessa, Virginia, producemmo una incredibile quantità di materiale straordinario, unico, del quale andiamo fiere e che sta ispirando molte sorelle attualmente incarnate nel corpo. Con mia cugina Elizabeth, che io stessa finii per chiamare col suo nome d'arte, molto più calzante del suo prosaico Mary Annette, nome di battesimo, Parlavamo della libertà delle donne dall'oppressione vittoriana. Amavamo e descrivevamo i giardini ed entrambe dedicammo capitoli e racconti alla Germania. Eravamo divertite dai suoi limiti psicologici di allora e la dipingevamo con ironia. Amavamo dilungarci nel descrivere stati d'animo e psicologia delle e dei personaggi nelle più piccole sfaccettature e mettevamo molta meticolosità nella caratterizzazione storica e geografica degli ambienti. Lasciai il corpo giovane, sì. Dissero che era tubercolosi, ma io sapevo che si trattava dell'impotenza di vivere come desideravo e dell'incapacità di mio marito di comprendermi. Il suo distacco dalla mia anima fu ciò che più mi fece allontanare dal corpo perché sapevo che quella frattura era insanabile e destinata ad allargarsi. A differenza di mia cugina, io faticai molto a pubblicare mentre ero in vita e solo dopo morta fui riconosciuta come la più grande scrittrice di racconti del mio tempo. Catherine mimò le virgolette con le dita emettendo una breve risatina divertita. Mi chiamavano Cass e come tutte le fanciulle di buona famiglia ebbi un'educazione adatta a chi si sarebbe sposata e sarebbe diventata un modello di moglie del suo rango. Ci insegnavano il canto, il pianoforte, il ricamo, il francese e quelle poche nozioni di geografia e di storia che ci permettessero di sostenere frivole conversazioni da salotto. Ma io eccellevo. Già bimba vinsi premi per i miei primi racconti e a scuola fondai un giornalino. Ero bravissima, come molte di noi. Alle bambine era richiesto essere bravissime, laddove ai maschietti era sufficiente essere mediocri. Ho descritto la Nuova Zelanda con la sua natura selvaggia, la vegetazione rigogliosa, gli spazi sconfinati in molti miei racconti brevi. Nelle storie di Kesaya identificai me stessa bambina. Kesaya ero io, descrissi la vita degli aborigeni e del bush, il deserto che si estendeva appena fuori dal recinto di casa nostra. Erano storie di gente semplice, scritte per la gente semplice, la sola di cui io cercassi davvero il consenso. Lasciai la mia terra natia in Nuova Zelanda e mi trasferii a Londra. Appena 19enne già scrivevo continuativamente per un periodico. Nella mia breve incarnazione come Cass sperimentai tutto ciò che potei. Non scrissi mai grandi eventi o storie degne di nota come nei romanzi di Emily e Charlotte, Bronte, di Elizabeth Gaskell o di Marian Evans, a noi conosciuta come George Eliot, o Edith Wharton. Il mio stile di scrittura avrebbe potuto essere ispirato alla piccola via di Teresa Delisieux, la via femminile dei piccoli sacri gesti quotidiani. Raccontavo le merende e i giochi dei bambini, le sottili percezioni, i minuscoli dettagli che descrivevo nelle più piccole sfumature. Le mie storie non avevano un inizio e una fine, erano frammenti, frammenti di vita, fotografie, attimi. Scrivere per me era una sorta di meditazione. Scrivendo, chiarivo la mia anima a me stessa. La mia famiglia era molto ricca, ma il mio padre banchiere non volle sostenermi a Londra, non volle permettermi di fare la scrittrice. Mi passava talmente poco denaro che io avevo sempre fame e freddo. Fu lì che si impossessò di me la tubercolosi, un male che attacca gli organismi debilitati. Io cercavo di arrangiarmi, facevo teatro, cantavo per rimediare qualche sterlina, senza tuttavia riuscire mai a sentirmi lo stomaco pieno. Spesso di notte sognavo di mangiare enormi porzioni di arrosto con patate. Per avere un finanziatore giunsi a sposarmi, ma la cosa mi fece talmente orrore che non arrivai neanche alla camera da letto. La prima notte fuggii e il matrimonio durò un giorno. Fu sciolto per non essere stato consumato. A Londra ebbi un'amica del cuore, come molte di noi. Penso a Brigid, a Hildegard, a Gabriela Mistral e a te, Virginia. Ebbi una compagna con cui confrontarmi e che mi aiutò a camminare. Si chiamava Aida, ma io la chiamavo Leslie. Aida mi fu vicina come nessun'altra fino alla fine. Anche se fu considerata nevrotica e debole nel mondo degli uomini, Per me lei fu una certezza, un appoggio, una compagna affidata che mi restò vicina anche quando il mio stesso marito, il secondo, John Middleton Murray, vigliaccamente mi abbandonò perché aveva paura del mio declino. Negli ultimi tempi non riuscivo a stare in piedi, camminavo con le stampelle, deperivo e vomitavo sangue, e lei c'era sempre, con la sua voce premurosa e il suo tocco gentile. Per me fu un grande sostegno. Lei mi diede manforte quando decisi di andare da Gurdjieff a Parigi, mentre mio marito cercava di farmi cambiare idea. Leslie fu la mia amica perfetta. Nel mondo degli uomini la relazione tra due donne può essere solo conflittuale o omosessuale, invece noi sappiamo essere amiche e sostenerci con lealtà e tenacia, ma questo non entrerà mai nei libri di letteratura scritti dagli uomini, perché le donne che sanno essere amiche tra loro e manifestano la più squisita sorellanza, minano il sistema androcentrico. Riuscì a superare il diaframma delle convenienze della decenza vittoriana grazie alla tubercolosi. Giunse il momento in cui, conscia che mi restava poco tempo in quel corpo, decisi per l'autenticità e per la pienezza di ogni esperienza. Rinunciai all'ipocrisia e mi consegnai alla verità. Tenni un diario dei miei ultimi giorni a Parigi da Gurdjieff, che rimase incompleto, come la mia vita. La durezza delle condizioni nella sua comunità fu considerata la causa, tra virgolette, della mia morte, ma non fu così. Io stavo guarendo, stavo meglio perché la mia anima stava meglio. Ma poi venne mio marito, finalmente, a trovarmi. E io mi resi conto che lui non capiva assolutamente ciò che mi accadeva dentro. Il mio incontro con l'unità e con la beatitudine. Lui aspettava che io guarissi per potermi riportare alla vita di prima, nel brillante mondo intellettuale londinese. Ma io sapevo che non sarebbe mai più stato come prima, né per me né con lui. Perché da Gurdjieff, come scrisse mio marito, che divenne il mio biografo, la squisita perfezione che era dentro di me aveva finalmente visto la luce. L'ultimo granello di degradazione terrena si era staccato da me per sempre e io divenni bellissima, trasfigurata. Io incarnai il mio corpo di luce e sebbene John, mio marito, sostenne che questa trasfigurazione mi costò la vita, noi sappiamo bene che la vita non finisce e che io avevo semplicemente cambiato il mio livello di coscienza, perciò lui mi vedeva così bella, poiché vide la luce che fuoriusciva dal mio veicolo fisico. Vissi sulla mia pelle una trasmutazione alchemica, ebbi il coraggio di andare fino in fondo, di sperimentare il passaggio dalla nigredo all'albedo. Abbandonai tutto, inclusa la forma fisica, e nel momento in cui terminai il processo alchemico del distacco trovai la grazia. Fui un'autrice molto prolifica. Nonostante i pochi anni di attività, lasciai la mia opera compiuta perché trasmutando la materia onorai la mia missione di vita. La scrittura per me fu la pratica spirituale quotidiana per arrivare alla grazia. Lasciai in Alla Baia una sorta di testamento spirituale, scrissi: a volte quei raggi di luce che appaiono in cielo si trasformano in uno spettacolo terribile, ti ricordano che lassù si trova Geova, il dio geloso, colui che ti osserva sempre vigile, mai stanco. Ti rammenta che quando egli verrà, tutta la terra tremerà fino a ridursi in un cimitero in rovina. Io me ne andai prima, quando il mondo davanti ai miei occhi era ancora uno splendido giardino fiorito di mille fiori, come quello che descrivesti tu, cugina e sorella Elisabeth von Arnim, attraversato dalla sinfonia della vita multiforme e infinita. Catherine si ritirò in se stessa, lasciando al suo posto un silenzio così vivo da essere quasi corporeo. Ma le sue ultime parole, rimaste sospese nel vento, avevano chiamato un'altra sorella seduta in cerchio. Avvolta in veli color prugna, si alzò trepidante e liberò il viso, mostrandoci quello di una donna bionda, non bella, ma di grande forza magnetica, colei che prendeva il filo rosso del racconto delle donne e vi aggiungeva il suo pezzo, si presentò a noi. Sono Maria Anna Valburga Ignatia, pronunciò. Ma in famiglia mi chiamavano Nannerl. Sono, fui, la sorella di Mozart. Lasciò cadere quest'ultima frase come un macigno che ci lasciò tutte senza parole. Con grande emozione e reverenza ci preparammo ad ascoltare il suo racconto.